yo, viene el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Penso che conosciate tutti la storia perigliosa dei fratelli Caponi. Antonio e Peppino Caponi da Napoli vanno a Milano sulle tracce della mala femmina che ha distolto il loro augusto nipote dagli studi, portandolo verso il gorgo della perversione. Dopo aver visto, indagato, cercato di capire, hanno deciso che la maniera migliore per convincere la signorina a mollare l'osso, almeno nel loro punto di vista, abbandonare la malia che allontanava dalla retta via il loro nipote, era scrivere a lei una lettera. Giovanotto, carta, calma e pinta, su. Scrivi. Hai scritto? Un momento, no? E comincia, su. Carta, calma e pinta. Ragazzi. Signorina? Dove sta? Chi è? La signorina. Quale signorina? Hai detto signorina? È andata la signorina. E che dice? Signor... Avanti! Animale, signorina! È l'intestazione autonoma della lettera. I fratelli Caponi non erano mai usciti dalla stretta cerchia del loro habitat natale. Andare a Milano per loro era come entrare in un'altra dimensione, tanto che è notissima la sequenza in cui scendono a Piazza del Duomo, col bacchi, le pellicce, che pensano che al nord ci fosse un clima totalmente diverso, non soltanto linguistico, non soltanto culturale, ma anche proprio meteorologico, da quello della loro città natale. Il famoso incontro col vigile in cui cercano una sorta di idioma raffazzonato fra lingue, dialetti, così, di chiedere la via per andare dove volevano andare loro. Beh, questi due personaggi così sradicati comunque dalla metropoli, dalla civilizzazione, dai modi e dagli usi che loro immaginavano lontanissimi dalle loro abitudini, capiscono e comprendono che l'unica maniera per scardinare questo meccanismo a loro stile che metteva a repentaglio tutta la loro storia, tutta la loro integrità, era proprio scrivere una lettera. Oh, signorina, signorina, veniamo noi con questa mia a dirvi. Veniamo noi con questa mia a dirvi. A dirvi una parola. A dirvi. A dirvi una parola. Che? Che? Che? Che? Che? Uno quanto? Che? Uno che? Uno che? Che? Che? Scusate se sono poche. Che? Che? Scusate se sono poche. Ma 700.000 lire, punto e virgola, noi ci fanno specie che quest'anno. Una parola, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche, come voi ben sapete. Punto. Punto. Due punti. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondantis ad abbondandum. Naturalmente la finta ingenuità dei due callidi fratelli infarcisce questo scritto di un'infinità di sottolivelli. C'è stata una grande moria delle vacche per giustificare la cifra, forse esigua, il prezzo dell'abbandono della malia, vacche come voi ben sapete, dando quindi della vacca a quella che loro consideravano almeno tale. L'abbondare di punteggiatura, punto e virgola, virgola, alla fine della lettera Peppino, da buon commerciante, propone di aggiungere salvo nulla a pretendere, quasi una sorta di cautela che una volta dati questi soldi la cosa era chiusa. Beh, è importante questo esempio tratto dalla commedia italiana perché dimostra che in fondo la necessità fondamentale dei due fratelli era quello di lasciare una traccia scritta, qualcosa appoggiato a un supporto decifrabile, comprensibile, pubblicamente, socialmente e storicamente attestato come veicolo della certezza. Loro devono lasciare traccia del loro passaggio, traccia del mercimonio, secondo loro giusto, tra loro e la mala femmina. È importante questo esempio perché questa mattina ho in studio Maurizio Ferraris. Maurizio Ferraris, buongiorno. Buongiorno. Lo ricordate, l'autore della fidanzata automatica che tanto suscitò fantasie nel nostro pubblico, ora ha scritto un libro dedicato proprio alla necessità di lasciare tracce, documentalità. Perché è necessario lasciare tracce, editore La Terza. Maurizio, innanzitutto, La lettera di Totò e Peppino è un esempio calzante riguardo la tua teoria che in fondo tutti vogliamo, ambiamo, amiamo, anche se lo temiamo, lasciare delle tracce del nostro passaggio. Senz'altro, loro stanno facendo un contratto in questo momento, del resto tu l'hai sottolineato. Mettiamo carta canta, mettiamo in chiaro le cose e a questo punto più nessuno potrà dirci niente. Lui deve allontanarsi, la mala femmina deve allontanarsi da lui, e questo è come se fosse, si possono fare infiniti esempi, in piccolo un trattato di guerra, l'acquisto di un bene, cioè, tutto quello che noi facciamo dentro alla nostra vita quotidiana è sempre in piccolo, in grande, qualcosa che di questo contratto, magari meno avventuroso dal punto di vista linguistico di quello di Totò e Peppino, però da una parte c'è un senso in cui Totò e Peppino fanno il contrario di Jacopo Ortis o del Werther. Quello lì fa quando Ortis dichiara il suo amore, sta facendo un contratto positivo, e allora e si aspetta che colei che corrisponde con lui risponda positivamente. A questo punto si crea questo oggetto che sarebbe l'amore fra i due, in ipotesi. Così, se tu vuoi comprare una casa, fai un altro contratto e ottieni questo. Se tu prometti domani ti darò 5 euro, magari quello lì basta la memoria, che è una forma di lasciare tracce naturale che sempre gli uomini hanno avuto. Però evidentemente si tratta di 50.000 euro, ma magari mettiamo qua su carta questo tipo di promessa. Perché? Perché su carta, su file, adesso perché abbiamo tutti quanti questi oggetti che ci circondano e di cui di colpo abbiamo scoperto che non possiamo fare a meno? Computer, telefonini, sono sempre degli oggetti che in parte servono per comunicare, ma soprattutto servono per registrare. Hanno dentro delle memorie enormi, e quello che registri dentro a queste memorie sono le interazioni sociali che hai con il tuo prossimo e tutti gli oggetti sociali che tu costruisci. Allora, poniamo subito la domanda al pubblico che ci ascolta. Avete capito qual è il tema? Il nostro desiderio di lasciar tracce non è soltanto un desiderio profondo che nasce dalla nostra voglia disperata di immortalità, di lasciare qualche segno di noi, ma anche dalla tranquillità e dalla serenità che lasciare una traccia significa avere la tranquillità che qualcosa è esistito. La traccia di un amore. Perché l'angoscia ci coglie quando una persona non ci dà segni tangibili del proprio amore? Mi ama, non mi ama, mi tradisce o mi è fedele? E noi cerchiamo quindi tracce e prove di quell'amore, tracce e prove di quell'infedeltà. E come le cerchiamo? Una volta ci si scriveva papiri, interi mucchi di carte e di lettere che devono essere la prova, la quintessenza, i pacchetti lettere legati con il fiocco delle nostre nonne, che ci si restituiva quando finiva l'amore, perché devono essere restituita la traccia tangibile del mercimonio sentimentale tra le due persone. Oggi si va a fregare nel telefonino della moglie, della fidanzata o del marito, per vedere gli sms, per vedere la traccia dell'amore o del mancato amore. 800 24 00 24, quali sono le tracce che vorreste lasciare? Quali sono le tracce che vi danno la certezza che qualcosa esiste? E soprattutto, avete mai pensato che forse sarebbe bello non lasciare nessuna traccia? Maurizio Ferraris, l'umanità, da quando, metti nel tuo libro, un uomo lasciò l'impronta alla sua mano zozza in una caverna, abbiamo cominciato a lasciare tracce. Esiste una tracciabilità storica che passa appunto dall'iscrizione alla caverna fino alla apparentemente volatile traccia che lasciamo passando per strada, nei nostri telefonini, nelle telecamere, in tutti i sistemi di spionaggio che ci fanno paura, ma ci danno anche una grande lussura di esistere. Sì, la cosa importante è proprio questa, da una parte questa ambivalenza che tu segnali, c'è il desiderio di privacy, però al tempo stesso c'è il desiderio di lasciar tracce, la tristezza di morire senza lasciar tracce e la tristezza di vivere lasciando tracce che noi non vorremmo lasciare, quindi c'è questa ambivalenza fortissima. Quando tu arrivi in un albergo ti fanno subito firmare per la privacy, il che è paradossale, perché tu stai lasciando tracce del fatto che in ipotesi tu non vuoi lasciare tracce, quindi è un'iperbole di questo genere di atteggiamento. Quindi ogni atteggiamento deve essere tracciato, anche il nostro diritto di non lasciare tracce deve lasciare una traccia. Sì, questo perché siamo nella sfera del diritto, però effettivamente che cosa è successo dalla caverna al telefonino? È successo che i sistemi di registrazione sono diventati enormemente più potenti, enormemente a più basso costo, a disposizione di tutti. Prima, voglio dire, adesso in un supermercato, quando tu fai la spesa e metti la carta di fidelizzazione, viene registrato tutto quello che tu compri. Immagina lo stesso tipo di operazione fatto prima di questi sistemi, per cui immaginiamo una commessa che deve segnare su un foglio tutto quello che uno ha comprato e poi dopo archiviarlo da qualche parte. Ovvio che questo non avviene. Però nel momento in cui questo avviene è come se un potere enorme finisse dentro agli archivi di quel supermercato. Il potere è sempre stato qualcosa che ha prodotto degli archivi ed è stato prodotto dagli archivi. In fondo, perché adesso si parla tanto di questa cosa di Google che da una parte ti dà accesso a degli archivi enormi a condizione che tu possa diventare parte di questo archivio. Quindi c'è questo... perché è così importante questo? Come se fosse una grande setta cosmica a cui se ci si iscrive si ha possibilità di condividere il potere degli altri. Di condividere il potere degli altri, ma soprattutto, secondo me, la cosa davvero rilevante in tutto questo è perché la gente prima, l'immaginario dell'umanità europea è stato per un certo periodo del Novecento andare sulla Luna e da un certo momento in avanti si è stato creare questi archivi giganteschi. In fondo, quando abbiamo visto quest'estate il quarantennale dello sbarco dell'uomo sulla Luna, ci sembra, ma chissà perché, che razza di idea? Sì, sembrata una cosa... strampalata e balzana. Come gli è passato per la testa, dopo tutto, di sbarcare sulla Luna quando stava cominciando qualcos'altro di vecchio come le piramidi, perché di fatto era la scrittura che stava invadendo tutto il mondo. Quello che abbiamo visto è stato un mondo globalizzato e invaso dalla scrittura. Vorrei introdurre adesso il secondo ospite, Giampiero Lotito, buongiorno. Buongiorno. Giampiero Lotito ormai è una voce abbastanza nota della nostra trasmissione, ricordo ha scritto I migranti digitali, origini e futuro della società dell'informazione, edizione Bruno Mondadori, si occupa di motori di ricerca, si occupa appunto di tracciabilità, si occupa appunto di archivi secondo i moderni dettagli, ma soprattutto è anche titolare di un blog che si chiama Tracce. Ecco, nel tuo ambito di competenze, Giampiero, quello che stiamo dicendo come trova espressione? Beh, io ho raccolto velocemente alcuni spunti dalle cose che ho sentito. Intanto la lettera di Peppino e quello che ha detto Ferraris prima riguardo ai contratti. In fondo il primo documento, la prima traccia della lingua italiana che noi abbiamo, che è quel Sao ca che le terre perché le fini che sì. Studiavamo a scuola, era un contratto. Tra parentesi scritto con le K che adesso sono tanto odiate perché sono proprie della scrittura dei telefoni. È la cifra più burina dei compilatori di SMS. Sì, esatto. Poi archivi e potere. Un po' di anni fa, una quindicina di anni fa, quando si affacciavano i primi archivi digitali, un importante personaggio dell'informatica italiana mi disse che non era stato possibile fare archivi nei quotidiani negli anni precedenti e nei decenni precedenti, anche se la tecnologia lo poteva permettere, perché i politici non volevano che si potessero recuperare loro vecchie dichiarazioni e confrontarle con quelle... Il timore momento. Della collazione, che oggi con Google è una cosa semplicissima. È la normalità. Poi una cosa che mi è successa ieri sera, parlando con un amico del tema di questa trasmissione, mi ha segnalato un blog di una persona che è scomparsa, una ragazza che aveva 40 anni quando è scomparsa nel 2006, che è ancora attivo perché i suoi amici dopo 3 anni continuano ad andare a postare messaggi di saluto e parlano a questa persona come se fosse ancora viva. Ci sono 400 messaggi sull'ultimo post. Io sono andato a vedere ieri sera, l'ultimo è di ieri. Dunque, a me è capitato, e capita purtroppo talmente spesso, che mi hanno segnalato l'altro giorno una nuova funzione di Facebook che permette appunto di segnalare il profilo di uno scomparso e permette alla famiglia di riottenerne comunque i privilegi per permettere agli amici o quelli che loro vorranno di continuare a esistere in questa sorta di lapide virtuale del loro congiunto. Maurizio Ferraris. In effetti, Il web, che sembra essere qualcosa di estremamente legato all'attualità che riguarda il nostro essere presenti, nel tempo, proprio per la sua forma di registrazione, si trasformerà in un grande contenitore di spettri, in un grande cimitero. In fondo, lo diceva già Proust, un libro è un grande cimitero. Figuriamoci questo gigantesco libro che si sta costruendo. Ovviamente ci sono i problemi tecnici, quanto potrà durare, noi non abbiamo la più pallida idea di quanto possa durare tutto questo, perché l'esperienza storica che ne abbiamo è limitatissima, però... Se noi andiamo in giro... Ci diceva Lotito che il papiro è stato considerato il supporto più affidabile per lasciare un messaggio in uno stoccaggio di scorie nucleari. Dice, fra 5.000 anni dove scriviamo questa roba fa male? L'unica cosa è il papiro, perché almeno sappiamo che resiste. Sì, perché di tutti questi nuovi materiali e di tutte queste nuove tecnologie della registrazione non abbiamo alcuna idea quanto alla durata, quanto cosa può, anche tutto quello che apparentemente nei nostri computer abbiamo tantissimo, molto di più di quanto ogni nostro atto è registrato, eccetera. Però al tempo stesso basta che noi non rinnoviamo i sistemi di salvataggio, di scrittura, il software di questo computer, in 10 anni diventa tutto illeggibile. Tutti quanti abbiamo le nostre case piene di dischetti da 3,5 pollici che non sapremo assolutamente. Sì, ma basta che tu non ti mandi come allegato un file Word di ultima generazione, se tu non hai fatto l'upgrade di quel programma non lo leggi. E quindi, quindi c'è questa idea dell'effimero, però già adesso girando su cose come YouTube, per esempio, che di fatto è un gigantesco archivio che cresce in continuazione, tu giri fra fantasmagorie di spettri, nel senso che tu vedi continuamente persone scomparse, spezzoni di film, frammenti di documentari, c'è questa immensa quantità di spettri. Sentiamo Angelo. Angelo, buongiorno, il primo ascoltatore. Grazie, buona giornata, per anche l'intervento. Dunque, io ho accettato le mie radici 16 anni fa. Io fino a 40 anni non potevo vedere mia madre per motivi miei che sarebbe troppo lungo raccontare. Sì, ma capita più spesso di quello che lei possa immaginare, mi credo. No, io diciamo che appunto 16 anni fa, accettando mia madre, ho cominciato a conoscere me stesso. E vorrei tanto che adesso queste mie radici che sono riuscito a risanare, questi miei radici, mia figlia riesca a capire il mio gesto. Ecco, che traccia anche lascerà allora di questa sua esperienza di riacquisto materno? Ma diciamo un bene, io ho capito che dentro di me c'era tanta rabbia. Ecco, ma dove lo lascia? Parliamo del supporto, della maniera. Lei questo sta dicendo adesso alla radio è importante. Come farà in modo, nella sua idea, che i suoi figli possano serbare traccia di questa sua esperienza? Perché dentro di loro non porteranno rabbia, perché io... Sì, ma dove lo lascia? Ho capito, ma dove, come fa in modo? Glielo racconta, lo scrive da qualche parte? Comunicando con mia figlia, non scrivo tracce, comunicando con mia figlia e dimostrare a loro che non sono più quella persona di 16 anni fa. Quindi è una traccia orale soltanto la sua? Sì, sì. Poi dopo ho fatto anche una tesi su questa cosa dove c'è... una cosa scritta, che questo volevo sapere, sempre perché... leggerla. Questo mi importa, perché è il succo di quello che stiamo dicendo, perché è necessario lasciare traccia, che è anche il libro di Maurizio Ferraris, che alla fine vede anche lei, sì, dirlo ai figli, comunicarlo ai figli, ma le parole spese dai miei genitori nelle mie orecchie, la gran parte si sono perse nei miei furori adolescenziali. Probabilmente qualcosina che mi hanno lasciato scritto, fra qualche anno mi capiterà di rileggerla e mi ricorderò di loro. Dunque, io stavo con, mettiti la cuffia Maurizio, con Maurizio Ferraris, ascoltando la telefonata del signore che ci ha chiamato poco prima. Io lo interrompevo, dicevo a questo signore, no, ma vada al punto, lui mi ha detto che ha avuto un'esperienza di riavvicinamento alla propria madre, dice, io chiedevo, ma quali traccia vuol lasciare di questa sua esperienza sui figli? E lui raccontava l'esperienza. Io insistevo perché mi raccontasse il supporto. Beh, ho fatto un madornale sbaglio. Lui stava raccontando la sua esperienza perché stava lasciando una traccia. Stava scrivendo nella memoria digitale di questa trasmissione la sua storia. Quella era la maniera di lasciare traccia. Maurizio Ferrari, sei d'accordo? Sì, il nostro mondo è pieno di cose che non basta semplicemente pensare perdono qualcuno, assolvo qualcuno. Bisogna prima di tutto dirlo, nel senso che fin tanto che, come dire, pensare di sposarsi non è sposarsi, questo è evidente, allora bisogna dirlo in contesti appropriati, cioè. E poi è necessario che tutto questo venga sentito pubblicamente e di questo resti traccia, e solo a questo punto tu hai un vero e proprio oggetto sociale, cioè in questo momento per esempio il perdono, io perdono questa persona, e solo nel momento in cui viene detto pubblicamente e viene registrato, cioè può essere ripetuto infinite volte, a questo punto hai questo oggetto, non è un mero atto psicologico. Come infatti i giornalisti chiedono sempre alla vittima, al parente dell'ammazzato, l'ucciso, del sequestrato, lei perdona, e non ci si domanda perché lo chiedono, ma che domanda cretina, perché lo chiedono? E lo chiedono per fare questo atto sociale di estinzione pubblica di un contenzioso. Poi magari non è necessario che ci sia un assenso psicologico di colui che perdona, anche perché poi è complicato perdonare, e ancora più complicato perdonare al posto di un altro. Avvicinati un po' al microfono. Ancora più complicato perdonare al posto di un altro, per esempio, perché quando qualcuno è ucciso, uno dice sì, io da parte mia posso perdonare, però lui chissà se avrebbe perdonato. Quindi c'è una verità, in ogni atto pubblico il consenso è sempre un'ipotesi, anche nel matrimonio, quando mai c'è un consenso reale? E non a caso è motivo di scioglimento del matrimonio religioso il vizio di consenso, ci se ne accorge sempre dopo. Sì, sì, però la cosa davvero interessante in tutto questo è, immaginiamo un ipotetico matrimonio tra smemorati, tra malati di Alzheimer, loro sono malati di Alzheimer, tutti intorno sono malati di Alzheimer e non ci sono documenti. Anche il prete è malato di Alzheimer. Tutti quanti, si svolge tutta la cerimonia, ma il giorno dopo c'è ancora questo matrimonio oppure no? Molto probabilmente no, nel senso che consiste soltanto nei documenti. Immaginiamo però che invece ci fosse stato un documento e 10 anni dopo i due, uno apre un cassetto e tira fuori c'è il certificato di matrimonio e dice, tu vedi cara, in effetti per questo noi abitavamo assieme nella stessa casa, è perché siamo sposati. Di colpo emergerebbe quell'oggetto, e l'unica prova dell'esistenza di quell'oggetto sociale è per l'appunto la registrazione, cosa che evidentemente non vale per gli oggetti naturali, le montagne, i laghi, e noi stessi come oggetti naturali viviamo benissimo senza che ci siano registrazioni che attestano la nostra esistenza. Esiste anche un'altra maniera nel cercare tracce, come abbiamo detto prima, per avere le prove dell'esistenza di qualcosa che si suppone, che si immagina, che si allucina. Mi ricordava Fabrizio Intonti prima la storia di Orlando. Orlando vaga nel bosco, quasi sull'orlo della pazzia, comincia a vedere scritte su qualche albero i nomi intrecciati di Angelica e Medoro. All'inizio si illude pensando che Medoro sia uno pseudonimo, diciamo, parla di me, ma più va avanti più trova alberi dove c'è scritto Angelica e Medoro. Alla fine va di testa, perché il sommarsi di tante tracce, di tanti documenti, gli dà la certezza che Angelica se la faceva con Medoro, almeno nella sua, e lì comincia tutta la sua follia e la sua pazzia. Quindi oggi il sistema investigativo ufficiale, politico, spionistico, artigianale, casalingo, di cui parliamo spesso in trasmissione, altro non è che una sorta di rivelatore di tracce che non sono poi così apparenti. È diventato molto, appunto, come facevi prima a lasciare tracce, per esempio, appunto, X ama Y, e andavi, dovevi cercare un albero, incidere, ed era un'operazione anche tecnicamente non facilissima, un cuore, fare una freccia, mettere tutta la cosa, eccetera. Intanto uno può chiedersi perché fare una cosa di questo genere, che bisogno c'è di fare una cosa di questo genere, e si collega con quello che dicevamo prima, cioè col bisogno di dare un'istituzione, una forma a un sentimento. C'è un esempio illustre, secondo me bellissimo, di Agostino nelle Confessioni, che è arrivato molto avanti nelle Confessioni, già ha superato la metà delle Confessioni, si dice, già, ma perché io mi confesso a Dio che sa tutto? Dopotutto, se è onnisciente, cosa vado a confessarmi? E a sua dice, no, io mi confesso a lui perché voglio fare la verità non soltanto nel mio cuore, ma anche di fronte a molti testimoni, in maniera tale che, e lui dice proprio, fare la verità. È importante questo, perché è come se dicesse, io faccio questo atto pubblico che dichiara la mia confessione, i miei peccati, le mie colpe. Questo io voglio. È rinnovare un contratto fra l'uomo e rinnovare un contratto e farlo, dice, non so, di fronte a molti testimoni, e anche, dice, e anche con la penna, proprio è come fare questo contratto pubblico, perché effettivamente Dio era onnisciente, non aveva certo bisogno di sentire. Quindi il lucchetto su Ponte Milvio di Federico Moccia altro non è che una rilettura granitica, acciaiosa e moderna del bisogno di lasciare una traccia di un patto. Sì, indubbiamente. C'è anche quell'idea della perennità. Ho lasciato un monumento più duraturo del bronzo. E lì nella fattispecie invece effettivamente è più duraturo del bronzo, nel senso che sono dei lucchetti di acciaio inossidabili, cose fatte bene tecnicamente. Però appunto quello che succede adesso, indipendentemente dalla durata di questo tipo di supporto, è il fatto che essendo diventato questo moltiplicarsi dei sistemi di iscrizione di registrazione, appunto rivela l'essenza profonda dello stare assieme fra degli uomini, cioè quello che noi vediamo è questo. Sentiamo Roberta e Lorenzo, due visioni antitetiche opposte della necessità e lussura di lasciar tracce. Roberta. Buongiorno Gianluca e complimenti per la trasmissione, mi diverte moltissimo. Dove allora, lasci tracce, Roberta? Lascio tracce su carta. Allora, ho due scatole. Una che contiene le agendine su cui faccio proprio un resoconto della giornata. Sono andata di qui, sono andata di là, le cose proprio asettiche, diciamo, senza emozione, da quando avevo 15 anni. E parallelamente ho invece il classico diario. Quindi da 15 a 42 le emozioni, che emozione mi ha dato fare una determinata cosa. Ho iniziato a farlo per me stessa, e mi diverte moltissimo adesso andare a rileggere delle emozioni vecchie oppure dei fatti che ho vissuto, perché è come rivivere una seconda giovinezza. Poi mi sono accorta che comunque dentro di me c'è la necessità di lasciare traccia, perché non sono famosa, non scrivo libri, ho detto se dovessi mai mancare, anche se tu avrai l'illusione che una volta schiattata qualcuno andrà a vedersi tutte le tue agendine. Ma più che altro le persone che mi vogliono bene, cioè capire tantissime cose. Io alle persone che voglio bene chiaramente parlo, non ci sono problemi. Quindi è una sfumata lunga della propria esistenza che però si lascia, esatto, ai postumi. Va bene, in bocca al lupo. Quando avrò 90 anni, altri 40 anni che vivrò, che bello, ne leggerò altri 40. Speriamo che siano divertenti per i tuoi figli, nipoti, bisnipoti, ex amanti, non so. Lorenzo, la seconda versante, poi sentiamo Giampiero. Lorenzo. Ciao Gianluca, buongiorno. Ascolta, volevo farti partecipe di una cosa strana che mi sta accadendo negli ultimi anni. Premetto che sono un utilizzatore esperto di computer dai primissimi modelli usciti, però ultimamente, per quanto riguarda la mia documentazione personale che conservavo su PC, ho avvertito l'esigenza di cominciare a cancellare questi dati perché mi sembravano effimeri. Oddio, se sei esperto sai che non cancelli un bel niente. Sì, però come dire, su una macchina, perlomeno per gli utilizzatori meno esperti, diciamo che sarebbe più difficile ritrovarli. Diciamo che tu li seppellisci sottoterra, diciamoci la verità. Sì, li seppellisco sottoterra, però parallelamente a questa cosa, man mano che cancello i dati, tento di lasciare invece una traccia opposta che non sia digitale ma bensì analogica, quindi che so, ricopiandomi sui due taccuini alcune informazioni importanti piuttosto. Senti, dico, mi sono accorto io l'altro giorno che sto girando con un pacco di post-it con telefoni, appunti, nonostante che abbia tre agende elettroniche, backup quotidiani, tutti i miei dati. C'ho le tasche piene di bigliettini. Sentiamo se Giampiero Lotito su questo può dirci qualcosa. Beh, la frase che ho scelto per cominciare Emigranti Digitali è stata una frase detta da mia madre mentre sferruzzava, quando le chiesi, in quel momento aveva 60 anni, perché non ti metti un giorno davanti al computer? E lei disse: a me piacciono le cose che lasciano un segno, i computer non lo lasciano e per questo non mi piacciono. Ma è vero che non lo lasciano, pare che ne lasciano di maggiormente indelebili, perché ancora non è entrato nell'immaginario comune che la memoria digitale è non altro è che una riscrittura della scrittura, scusa il termine cafone. Sì, però c'è un paradosso che si è evidenziato negli ultimi 15 anni, 20 anni, e cioè che noi comunque riusciamo a mantenere traccia realmente di quello che produciamo nel mondo digitale la maggior parte delle volte attraverso la carta. Tra le altre cose, anche memoria di quella che è stata la rete 15 anni fa, quando non c'era ancora l'idea di conservare tutto quello che si produceva, molto spesso la troviamo nei libri o la troviamo nelle cose che abbiamo stampato, così come dai nostri computer di 10 anni, di 15 anni fa, molto spesso non troviamo più cose, non troviamo più documenti, ma troviamo la carta che all'epoca abbiamo stampato. Prima si è parlato del viaggio sulla Luna. Pochi anni fa venne fuori la notizia che una gran parte, se non tutto l'archivio che riguardava i dati elettronici relativi ai viaggi sulla Luna, era andato disperso perché non c'era più il modo di recuperare quei dati, perché la tecnologia usata allora era obsoleta e comunque non c'era software in grado di andare a leggere dentro quei dati. Nessuno ha ritenuto utile riversarli su un supporto più aggiornato al tempo? O tradurli in qualcosa che fosse utilizzabile nei decenni successivi. Quindi la memoria che abbiamo della Luna poi alla fine sono i video girati analogicamente, i giornali che abbiamo conservato, le foto. Ma sentiamo intanto due ascoltatori. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Ah, lei ha fatto una cosa bellissima, la capsula della memoria. Mi ha sempre affascinato. Io l'ho fatta quando avevo 35 anni, ora ne ho 51, e l'ho fatta mentre stavo mettendo a posto le mie cose da bambino, e con la concomitanza di alcuni lavori in giardino mi è venuta questa idea. Senta, spiego un attimo, perché è un mio vecchio pallino, ne parlai tanto alla radio, non è detto tutti lo sappiano. La capsula della memoria è una metodologia, se uno va in rete ne vendono di tutti i tipi. Uno si compra questo bussolotto, si pensa impermeabile, che resiste alle intemperie, ci mette le cose più importanti della sua vita. Ora, capsula della memoria può essere lanciata nello spazio e racconta, non so, la chiave del DNA, la storia dell'umanità, sperando che gli extraterrestri la trovino e abbiano tracce della nostra civiltà. Può essere fatta da un istituto di ricerca, da qualcuno che vuole lasciare tracce del passaggio di un evento, di un fatto storico, di una città, di un uomo. Ma una persona qualsiasi può anche metterci dentro i capelli di quando era bambino, i suoi primi disegni, il libro che nessuno le ha mai pubblicato, le unghie della fidanzata, le mutande sporche del nonno, quello che vuole, le mette sottoterra sperando fra 10.000 anni qualcuno le troverà e saprà qualcosa di lui. È così? È così. Però questa mattina voi, durante la trasmissione, mi avete fatto sorgere un dubbio. Il dubbio è questo: siccome io questa mia capsula io l'ho fatta perché i miei figli, la mia bambina, un giorno la ritrovasse. Perché va a scavare nel giardino la sua bambina, sì, immagino. Sì, scavare nel giardino. Il dubbio è questo, ma la vera tracciabilità, la vera traccia è il fatto, è la capsula in se stesso o la lettera che io ho fatto in modo che la mia figlia a una certa età la ritrovasse? Beh, più facile che trovi la lettera nel cassetto, immagino che vada a scavare sotto l'albero di nocciole e trovi la capsula a memoria. Sentiamo cosa ne pensa Ferrari. Ma sembra più che la caccia al tesoro, la traccia al tesoro questa qua, nel senso che tu hai una lettera che sicuramente la traccia fondamentale è offerta dalla lettera, perché è un po' come, perché la lettera rende significative le altre cose. Intanto dice: io queste cose qua che tu troverai nel giardino non le ho perse accidentalmente, me le sono dimenticate, cadute durante un trasloco di intemperie, le ho messe lì esattamente perché tu poi potessi trovarle un giorno, e quindi che queste cose siano destinate e dedicate a te lo capisci da questa lettera. Questo in fondo è un po' la differenza che c'è fra la storia e la preistoria. Quando è che esattamente incomincia la storia? Non è che ci siano altri criteri se non il fatto che inizia la scrittura. La scrittura è quello che rende eloquenti le tracce delle civiltà precedenti alle civiltà della scrittura. Troviamo tante cose, utensili, oggetti, fibbie, cose varie, eccetera. Poi però c'è un momento in cui cominciamo a trovare dei documenti scritti. Fra l'altro, magari i documenti scritti c'erano già prima, solo che non lo si sa perché i supporti sono scomparsi, quindi non c'è più quella traccia lì. E da questo momento comincia una storia che ci riguarda ancora. Questo è il segno di quella espressività della scrittura rispetto ad altre tracce. Laura, buongiorno. Buongiorno. Dove lascia tracce? Ma io, no, non personalmente, mi sono preoccupata sempre, adesso ho 35 anni, di lasciare le tracce per gli altri, per i miei cari. Sì, ma le sue tracce per gli altri, certo. Sì, esatto. Vabbè, tramite me io sono stata soltanto un mezzo, mi sono sentita sempre così. E ho cominciato che avevo, insomma, 12 anni. Ah, quindi lei è il supporto di Tracce Altrui, questo vorrebbe dire? Esatto, questo vuol dire. Ho cominciato intorno all'età di 12-13 anni a scrivere e registrare le storie dei miei nonni, ma anche le loro confessioni, ed ho ripreso, adesso che sono mamma di due bambini, a scrivere per loro, quindi lasciare tracce dei loro progressi, delle loro... Quindi lei è l'archivista della memoria familiare? Esatto, sono archivista. In parte vivo attraverso queste anch'io, nel senso che ci sono anche io in queste, soprattutto nel racconto dei miei figli, io compaio come un Deus ex machina, volendo, no? Nella creazione di varie situazioni. Sicuramente non sento ancora un'esigenza, diciamo, cosciente di lasciare le mie di tracce, forse mi aspetto che i miei bambini o i miei nipoti me le chiedano e si facciano anche essi tramite. Allora, quello che dice Laura mi ha fatto venire in mente, e vorrei sentire che ne pensa Giampiero Lotito. Ho visto ieri, colta in internet fugacemente, quindi la mia informazione è imperfetta, il cadavere di un soldato che veniva dall'Afghanistan, mi sembra inglese ma non ci giurerei, sulla sua schiena stanno tatuando tutti i nomi di tutti i suoi commilitoni, lo seppelliranno con i nomi dei commilitoni tatuati sulla schiena, diventa a questo punto la traccia organica dell'affetto, del ricordo dei suoi compagni di battaglia, ricordo che andrà deperendo come deperirà con la carne, ma l'aspetto simbolico è importante. Giampiero Lotito. Beh, comunque rimarrà la traccia della foto. Che infatti digitalmente già gira in internet, quindi una traccia è stata lasciata, vedi, non è stata tradita lasciata la nostra vocazione di lasciare tracce. Infatti, no, io volevo riagganciarmi al discorso della capsula della memoria, che è un perfetto esempio di quella che è la grande differenza tra le tracce analogiche e quelle digitali, perché la ragione per fare un oggetto del genere è che le tracce analogiche sono quasi sempre oggetti unici. Da tecnologo, adesso parlo per pochi secondi da tecnologo, sto osservando un fenomeno che sta dilagando nel mondo digitale, che è quello della moltiplicazione delle tracce. Uno dei grandi problemi dei grandi archivi oggi è riuscire a ricondurre tutte le informazioni che ormai hanno avuto una moltiplicazione e si ripetono sempre uguali. Pensate ad esempio a quanti file noi abbiamo replicati in più computer o in più cartelle o nella chiavetta nel computer, e non sappiamo più dire quante copie, quale proliferazione hanno avuto i nostri archivi personali. Questo a livello globale sta diventando un fenomeno importante, perché è una delle cose su cui gli esperti di archivi e di tecnologia, ad esempio come i motori di ricerca, stanno lavorando per arrivare a risolvere un problema che potrebbe deflagrare nei prossimi 10-15 anni. Ecco, Maurizio Ferraris, vedo che la sigla ci sta portando via, ricordo documentalità perché è necessario lasciare tracce, la terza, con Giampiero Lotito abbiamo visto, e questo sarà il tema dei prossimi incontri, faremo su questo argomento, che esiste la clonazione delle tracce, le tracce clonate valgono come le tracce originali, però su questo parleremo un'altra volta, a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Radio 24. La passione si sente.